questa è sempre Oxygen in voce con voi Amptech. Vi ricordo il sito www.radiosamarcanda.it di riferimento per lo streaming e www.musicamachina.com in cui potete trovare podcast, classifiche, recensioni, video, playlist e tutta un'altra serie di proposte che completano quella che è la nostra prospettiva sonora. Stiamo ascoltando un estratto dalla ristampa di un disco uscito nel 1993 per Warp Records, che viene riproposto in edizione espansa. Si tratta di Pure in Pure, un extended play dei Seafill, un gruppo storico della musica contaminata con l'elettronica, che vi ricordo è stato anche oggetto di remix da parte di Aphex Twin. Andiamo avanti con un altro personaggio storico, Luke Vibert, che ricordiamo anch'egli complice di Aphex Twin in alcune proposte discografiche, che esce con un nuovo disco targato Wagon Christ. Gentlemen of the press, it is with great pleasure I now present you. Snatch of the day, and we'll kick off with music. Feel the squirrely and the groove. Jazz, jazz, hip hop, hip hop, disco. This my disco. Let it hit 'em. Play the theme. Cut the jive. Oh, so corrupt. So you play the theme. Cut the jive. Oh, so corrupt. So you cut the mid. Cut the mid range. Drop the bass. Absolutely no pain at all. With a highlight, tell me, where is it impossible to snatch? A nudist colony. E questo era Luke Vibert con lo pseudonimo di Wagon Christ, uno pseudonimo che utilizza nei dischi più trip hop, in cui monta voci, suoni, loop provenienti da varie fonti in un guazzabuglio elettroacustico molto originale. Andiamo avanti con un altro progetto che abbiamo conosciuto grazie alla Reflex di Aphex Twin, ovvero Global Goon, che esce con un nuovo album 2025. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your soul. For your brain. This is Oxygen. Thank you. for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Discografico di un progetto che abbiamo avuto occasione di conoscere tramite la Reflex negli anni 90 e che torna con Grow Your Own Goon Garden, che è il lavoro appunto 2025. Ma andiamo avanti con una compilation della Time Dance Records, che ritengo abbastanza interessante perché ci offre una panoramica su alcune sonorità contemporanee. Stiamo già ascoltando il brano di Marco Shuttle e subito dopo ascolteremo quello di Jazz, che si intitola Floating on Egg White. Time Dance TD10, il titolo della raccolta. We'll be right back. for your brain, for your soul. This is Oxygen. Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul, this is Oxygen. questi erano alcuni brani provenienti dalla raccolta della Time Dance Records TD10, una panoramica su alcune sonorità decisamente interessanti della nostra contemporaneità. Ma andiamo avanti con un altro artista che abbiamo avuto occasione più volte di presentarvi, ovvero Dominik Fernow, che utilizza anche gli vari pseudonimi per presentare le sue pubblicazioni e soltanto nel 2025 ha pubblicato 4 lavori, 3 come Vatican Shadow e uno come Priant. Adesso ascoltiamo 2 estratti appunto dai lavori intitolati a Vatican Shadow. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Thank you.

E questo è sempre Oxygen. Stiamo ascoltando uno degli estratti dal nuovo lavoro di Vatican Shadow, ma andiamo avanti con il brano che chiude la puntata di stasera, anche se vi ricordo che Oxygen prosegue per tutta la notte con una serie di selezioni e di live di DJ set che attraversano un po' i generi che proponiamo durante la trasmissione. Chiudo con Prime Omega, nuova traccia di Petar Dundov. Thank you.